Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. 60 anni di comunità europea, ma anche 60 anni di trasporto. In occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma, che il 25 marzo del 1957 hanno dato vita al progetto europeo, si celebra oggi tutto ciò che ha contribuito alla creazione dell'Unione Europea. Non poteva mancare quindi uno sguardo attento anche sui trasporti, elementi imprescindibili per un'Europa realmente unita. In occasione del Digital Day che si è svolto a Roma giovedì scorso, il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini ha sottolineato proprio come la mobilità viva una fase di profondo cambiamento ed evoluzione, in cui le tecnologie giocano un ruolo particolarmente significativo. Non a caso, l'Italia sostiene il progetto europeo sui corridoi transfrontalieri e nazionali, un protocollo di comunicazione tra i veicoli e tra veicoli e infrastrutture per favorire l'omogeneità del mercato europeo. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. 60 anni di Unione Europea oggi, l'avete ascoltato dalla scheda, ma l'avete ascoltato sicuramente dai tanti GR che fin dalla prima mattinata ci hanno ricordato questo appuntamento, ma anche 60 anni di trasporti europei. Trasporti che si trovano oggi di fronte a nuove sfide legate all'ambiente, alla sicurezza, alle innovazioni tecnologiche. E proprio qualche giorno fa, nell'ambito della Digital Day, è stato firmato un protocollo, un accordo fra i vari paesi europei per lo sviluppo e l'evoluzione tecnologica del mondo dei trasporti, e noi ne parliamo in compagnia del primo dei nostri ospiti, che è il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, il senatore Riccardo Nencini. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buonasera, anche a lei, grazie a chi ci ascolta. Allora, dicevamo, qualche giorno fa c'è stata questa firma a Roma, sempre nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni dell'Unione Europea nell'ambito del Digital Day. Di che cosa si tratta? Soltanto 120-130 anni fa, forse qualche anno di più, usciva Il Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, un romanzo che ha accompagnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza. Quegli 80 giorni non era il tempo per fare il giro del mondo, ma la distanza tra le due grandi capitali europee più lontane, Madrid e San Pietroburgo. 80 giorni con la carrozza a cavallo. Il mondo è cambiato, la tecnologia si è evoluta in maniera straordinaria, abbiamo firmato un accordo per siglare un protocollo d'intesa che porterà probabilmente entro il 2030 all'uso dell'auto e di altri mezzi di trasporto su strada senza pilota. Si tratta di tecnologie che si stanno sviluppando molto nel resto del mondo e anche in Europa. A che punto è però la ricerca e l'innovazione su questi prodotti e soprattutto la sperimentazione qui in Italia? Beh, è molto avanti. In Francia, a Parigi, già abbiamo autobus che funzionano, viaggiano su strada senza pilota, ci sono già città in Europa, due sicuramente, dove si sperimentano auto senza pilota. È una ricerca importante anche in Italia. Quello che l'Europa deve fare è associare l'impresa, l'industria automobilistica con l'impresa altamente tecnologizzata, in modo tale da evitare che il peso degli Stati Uniti, che quanto alla tecnologia hanno una straordinaria Silicon Valley, sia determinante anche per le sorti di questo tipo di economia in Europa. E c'è un settore che ha fatto dell'innovazione tecnologica un po' un cavallo di battaglia, quello del trasporto delle merci. Non a caso uno dei primi veicoli a guida automatizzata era appunto un veicolo pesante per il trasporto delle merci, autotrasporto che in queste settimane sta vivendo sicuramente un momento difficile, tanto da spingere le associazioni di categoria del settore aderenti ad una a proclamare una giornata di mobilitazione e di sensibilizzazione, perché un dato importante che dobbiamo segnalare è che questa giornata si è svolta con una correttezza e senza nessun tipo di danno, tra virgolette, anche per gli utenti. Ne parliamo in compagnia del segretario generale di UNATRAS, Pasquale Russo. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, questo tema dell'innovazione tecnologica si concilia molto con quello del mondo dell'autotrasporto, ma insomma i problemi di questo settore sono ben altri. Ma sì, diciamo, anche ascoltando le parole del Vice Ministro ci rendiamo conto che il mondo corre veloce, corre verso soluzioni di innovazione tecnologica che dovrebbero semplificare la vita delle imprese, quindi farle crescere, renderle più competitive, mentre purtroppo nel nostro paese nelle operazioni diciamo più banali, quelle che dovrebbero essere scontate proprio alla luce anche delle tante innovazioni tecnologiche, io leggevo un articolo in cui Google stava immaginando insieme ad Amazon di consegnare sulla Luna e noi invece ci troviamo ancora con la forte difficoltà per le nostre imprese a fare un'operazione banale ma importante, che è quella delle revisioni annuali dei veicoli industriali, e ci abbiamo questa grande difficoltà perché abbiamo un settore diciamo della pubblica amministrazione, per inciso quello della motorizzazione, completamente destrutturato, privo di strumenti anche di innovazione tecnologiche che non consentono alle nostre imprese di fare ad esempio, ripeto, un'operazione importante ma banale che è la revisione annuale dei nostri veicoli. E quindi questo è stato uno dei motivi per i quali l'autotrasporto ha deciso di mettere in campo questa importante protesta che si è svolta in 20 città italiane sabato scorso. Certo, una protesta, come dicevamo, che non ha avuto per fortuna conseguenze importanti, contrariamente a quanto è successo in passato, per gli utenti e per i consumatori. Senatore Nencini, quanto l'innovazione tecnologica, la telematica, le nuove tecnologie influenzeranno in generale il mondo dei trasporti nei prossimi 20 anni? In maniera decisiva e decisamente rivoluzionaria, perché si associano a un desiderio profondo delle donne e degli uomini di muoversi per conoscere, muoversi per andare incontro alla libertà. Negli anni 90 c'era soltanto 1 milione di cinesi che si muoveva dalla Cina verso il mondo, 25 anni dopo sono diventati 110 milioni, e cito soltanto questo caso, poi arriveranno pezzi di ceto medio provenienti dall'India, probabilmente anche dall'Africa. La tecnologia è indispensabile per dare un servizio migliore, per dare più sicurezza e per garantire soprattutto dal punto di vista logistico una buona distribuzione anche delle merci. È impegnato in questi anni nella creazione di una vera e propria piattaforma tecnologica, cioè una struttura digitale in grado di controllare in qualche modo il mondo delle merci. A che punto siamo, Russo, rispetto a questo progetto? Ma il progetto è un progetto che è in campo da un po' di tempo. Dalle notizie che abbiamo si va finalmente, direi io, ad una messa in esecuzione di questo progetto. Ci riferiamo in particolar modo alla piattaforma logistica nazionale, che è un progetto che effettivamente attraverso l'innovazione può migliorare la competitività del sistema della distribuzione, del sistema del logistico, e quindi di dare dei benefici alla nostra produzione industriale. Questo sistema punta ad esempio ad evitare, attraverso appunto un sistema innovativo di tracciamento delle merci, ad evitare la lungaggine delle operazioni burocratiche, ad esempio, che le imprese di trasporto sono costrette a fare ogni qualvolta si arriva in un porto. O ad esempio si può favorire quelli che sono i corridor superfast, cioè i corridori doganali veloci, che proprio attraverso il tracciamento delle merci e attraverso il controllo documentale della piattaforma informatica potrebbero spostare quelli che sono i controlli doganali dai porti o dagli interporti all'interno delle fabbriche, con appunto un sistema di tracciamento delle merci che garantirebbe che quei controlli che non si fanno nel porto si possono, certo, fare diciamo presso l'industria. Vice Ministro Nencini, parlavamo di porti, ci sono poi le ferrovie, c'è la strada con il trasporto su gomma, ci sono quindi varie modalità che dovranno dialogare sempre di più fra di loro, e per questo verranno sicuramente in aiuto le nuove tecnologie. Ma quanto è importante questo dialogo fra modalità, la cosiddetta comodalità, come ci dice l'Europa? È importantissima, ma l'Italia deve intanto lavorare anche su un altro piano, inferiore ma non meno importante. Ne cito il caso ad esempio del collegamento di ultimo miglio tra i porti e l'entroterra. Soltanto un numero infinitamente piccolo di porti italiani è collegato da una ferrovia. Tenga conto che il 70% circa delle merci arrivano e partono dall'Italia soltanto attraverso il mare. Quindi per ragioni di ambientale, rispetto dell'atmosfera e soprattutto velocizzare il mondo della logistica, quindi il trasferimento, il trasporto delle merci, anche la realizzazione di parti di ferrovia, di ferro, la cura del ferro, come è stata definita, diventa indispensabile. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini, il Segretario Generale di UNATRAS, Pasquale Russo. L'appuntamento con Container ritorna, come al solito, sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autori.